Buongiorno ascoltatori di Archeologia Videoludica, io sono Nicola Vaglio, H. Mascello Tamigi. Siamo arrivati ormai al Natale, quindi quale migliore occasione per farvi i miei personalissimi auguri di buone feste, quindi buone feste. Però la cosa bella di questo periodo è sicuramente il fatto di avere un po' più di tempo da dedicare al nostro hobby preferito, quindi videogames. Io personalmente in questi periodi ho sempre il rito di riprendere in mano qualche vecchia gloria da rigiocare per rievocare qualche emozione che questi capolavori, o comunque no capolavori, perché ho anche giocato parecchia rumenta nella mia storia videoludica, però di fatto rievocare qualche emozione che questi titoli mi hanno lasciato ancora oggi. Quest'anno ho deciso di riprovare Alex Kidd in Miracle World, il gioco per eccellenza direi del Sega Master System. Me lo ricordo benissimo perché comprai l'edizione già installata all'interno della console. Di fatto Alex Kidd uscì nel 1986 con una release proprio fisica, quindi aveva la sua cartuccia personale da comprare a parte dalla console, però di fatto nel 1990 uscì il Sega Master System con direttamente installato Alex Kidd in Miracle World, e questa è la versione che poi ho io qui davanti a me. Quindi ho ancora questa console che era molto bella, diciamo che aveva questo sportellino davanti per inserire le varie cassettine, le varie cartucce, ed era abbastanza conforme poi agli standard che susseguirono poi le console Sega, diciamo, quindi che un po' lasciava intravedere il Sega Genesis, il Master System. Era un po' il figlio di un'epoca 8-bit abbastanza concitata. Comunque, Alex Kidd in Miracle World. Alex Kidd in Miracle World è forse il mio primo ricordo per quanto riguarda i videogames, quindi ricordo benissimo l'entrata con i miei genitori alla stand, avevo circa 5-6 anni, e alla vista di questa montagna di Sega Master System, la scatola è questa bianca con i disegni proprio di Alex Kidd in primo piano, pregai appunto i miei genitori per ricevere quella console proprio a Natale, se non erro, e i miei me la regalarono insieme anche a Hang On, che era poi il gioco di moto, era veramente molto bello. Avevo anche la pistolina del Sega Master System con Operation Wolf, se non erro, sì, Operation Wolf. Devo dire che passai davvero molto tempo con il Sega Master System. Di fatto però Alex Kidd in Miracle World è un gioco molto importante nella storia della Sega, perché Alex Kidd proprio in quanto personaggio è stata la prima mascotte della console, quindi ha portato avanti la Sega fino poi all'avvento del porcospino blu Sonic, che tutti conosciamo e che ormai tutti identifichiamo come il marchio Sega. Però prima di lui c'era Alex Kidd, e non nego che ancora oggi spero in un remake di Alex Kidd, anche perché dopo Alex Kidd in Miracle World, che è il primo gioco che ho provato con questo personaggio, uscirono tanti altri titoli, e in particolar modo uscì anche Alex Kidd in Shinobi World, che era un po' uno spin-off, no, perché c'era anche Shinobi nel panorama Sega. Comunque di fatto era uno spin-off davvero molto divertente, quindi il personaggio secondo me ha ancora delle potenzialità. La storia però di Miracle World la scoprì successivamente, perché in quel periodo non c'era neanche il manuale di Alex Kidd, se non ero dentro la scatolina, quindi era impossibile praticamente capire la storia, perché il gioco partiva con una schermata rappresentante la mappa e tu eri già dentro l'avventura, quindi non potevi capire bene. Solo più avanti andrai a leggere un po' in giro, un po' a informarmi dai miei amici, e scoprì che Alex Kidd era un ragazzino che ha passato per molto tempo la sua vita in una montagna ad allenarsi per così acquisire una tecnica speciale per distruggere qualsiasi cosa con un colpo. E poi nel mondo in cui Alex Kidd abitava arriva il classico cattivone di turno, il classico dittatore che soggioga tutta la nazione, rapisce il fratello di Alex Kidd, e quindi il nostro compito è quello di andarlo a salvare. È una tematica che comunque ritorna, a un evergreen per questi tipo di giochi, perché comunque anche in Super Mario per esempio dobbiamo salvare sempre e comunque la principessa Peach, quindi è una tematica questa del salvataggio abbastanza comune nel mondo dei videogiochi. Comunque parliamo di un side scroller, ok, di un platform abbastanza classico con forti elementi action, però il primo livello secondo me era molto originale, perché invece di partire con un classico side scroller, quindi un livello che andava da sinistra verso destra, era un livello che andava dall'alto verso il basso, quindi dovevamo scendere per questa montagna, distruggere i vari nemici e trovare power up distruggendo delle casse, dei quadretti praticamente con sopra il simbolo della stella o il simbolo del punto interrogativo, nelle caselle con la stella si trovavano i classici soldi che erano rappresentati nel più classico dei modi, ovvero sia con il sacchetto, con il disegnino del simbolo del dollaro sopra, e invece poi nelle caselle con il punto interrogativo si trovavano dei power up, in particolar modo un anellino che ti permetteva di sparare da lontano. Ricordo che il primo attacco, l'unico attacco del nostro personaggio, è un pugno che era praticamente grosso come la testa di Alex Kidd, oppure si trovava un fantasmino che praticamente una volta rotto, quindi bisognava stare attenti a non... Per carità, tu vedevi la casellina col punto interrogativo, per carità lasciala lì, vai avanti, perché se tu rompi quella scatolina lì esce fuori il fantasma formaggino che ti insegue per tutto lo schema e tu praticamente eri morto. Quindi dovevi capire che quel punto lì era abitato da questa entità. E visto che non c'erano salvataggi, quindi non si potevano salvare, non c'era la possibilità di salvare nella memoria del Sega Master System, tu dovevi capire, e io quindi mi ero scritto tutto in un fogliettino di carta, quindi non distruggere la casellina col punto interrogativo situata lì, altrimenti si moriva. Comunque, una volta affrontato questa parte di livello, si scendeva in un lago, quindi un livello sott'acqua, era comunque sempre nello stesso stage, e lì si andava da sinistra verso destra, si ammazzavano dei nemici orrendi, come dei pesci con un muso enorme, oppure c'era anche una ranocchia col tuxedo che sparava delle bollicine, era veramente qualcosa di osceno, e poi si arrivava alla fine del livello e si prendeva la palla di riso. Quindi si compravano questi queste palle di riso e rappresentavano un po' la fine del livello. Poi si passava al secondo livello, e il secondo livello era tutta un'altra cosa, quindi era il più classico dello stile platform, però la cosa più figa è che si potevano comprare dallo store iniziale, quindi c'erano in questi livelli degli specie di glue in cui entrare, e c'era un vecchietto che ci vendeva tutta una serie di rumenta, tra cui anche dei veicoli, e quindi tu potevi prendere una motocicletta e affrontare i vari livelli con la motocicletta, ed era una figata pazzesca, quindi era davvero molto molto divertente, anche perché appena tu zompavi sulla motocicletta cambiava anche la musica di sottofondo, e la colonna sonora di Alex Kidd vi assicuro che rimarrà in tutti, insomma, nelle vostre teste per parecchio tempo, se l'avete giocato lo sapete benissimo. Quindi c'era la motocicletta, ma la cosa ancora più figa era l'elicotterino. Quindi c'erano dei livelli proprio in cui tu potevi volare, potevi praticamente alzare il tuo elicotterino pigiando tante volte il tasto del salto, però appena toccavi qualcosa con le eliche perdevi il veicolo, ed era una tragedia. Io ci rimanevo malissimo, perché porco cane, ma io ho preso il veicolo più bello della vita, mi sto divertendo un casino perché sto sparando, ma perché un solo colpo? Ma dammi una barra della vita, cioè tu mi dai una barra della vita, prendo un colpo, appena la barra della vita arriva a zero io perdo il veicolo. Invece no, anche lì bastava un colpo e perdevi il veicolo. Comunque andavi verso questi livelli, percorrevi questi livelli con i tuoi veicoli, era molto divertente, e poi arrivavi al boss finale. Uno può dire: cavolo, hai superato tantissime di difficoltà, hai saltato per tantissime piattaforme, l'ultimo boss sarà qualcosa di incredibile. E invece no, perché l'ultimo boss di questo Alex Kidd Miracle World, comunque gli boss di livello, si combattevano con la morra cinese. Quindi stiamo parlando, immaginatevi un film di Bruce Lee, ok? Un film di Bruce Lee, combatti contro i soliti scagnozzi, quindi ci sono le scene dove ti arrivano questi inutili scagnozzi, e poi alla fine, invece di avere quel nero gigante che era veramente una figata, quindi c'era Bruce Lee piccolino con la bellissima tuta gialla, ripresa poi in altri titoli del genere, come Kill Bill per esempio, invece di avere il nero, invece di fare questo combattimento all'ultimo sangue a colpi di kung fu, si mettevano e giocavano a un 2-3 stella, o comunque a, non so, Pippere Pettennusa. Capite che non ha un senso logico, uno si aspetta di avere lo scontro finale, no? In fondo Alex Kidd è stato su una montagna a imparare una tecnica che poteva uccidere qualsiasi cosa con un colpo, e invece combatte con la morra cinese. Poi c'era un pattern, ok, in base ai vari boss, però uno si aspettava il combattimento della vita. Vabbè, è sempre stato un elemento che non mi piaceva di questo titolo. Anche alla fine c'era un indovinello, insomma, abbastanza tedioso, un ragazzino di 5 o 6 anni, ma chi se ne frega di indovinelli, uno voleva mazzolare le robe, no? Già con Pac-Man il concetto era di magnarsi tutto, quindi di trovare i vari cosi e di distruggere tutto. Invece in Alice Kidd gli ultimi mostri si combattevano con la mora cinese, vabbè. Comunque anche questi fanno parte del mio bagaglio di ricordi di questo titolo, e rigiocandolo ancora oggi mi ricordo moltissime cose, come vi ripeto lo store, oppure i nemici che c'erano, questi scorpioncini davvero mesti che io odiavo, perché poi dovevi praticamente superarli, anche perché il tuo attacco certe volte non andava a segno, quindi ti colpivano lo stesso, e se non sbaglio avevi anche soltanto un punto vita, quindi bastava un colpo e morivi, non c'era salvataggio, eccetera eccetera, e quindi tu ti sedevi sul pavimento per giocare all'Alex Kidd e ci rimanevi in modo tale che il tuo culo praticamente diventava una specie di lastra di ghiaccio, ma a 5-6 anni non ce ne importava niente. E vabbè, un grandissimo gioco comunque. Questo è il mio ricordo di Alex Kidd in Miracle World. Personalmente, se non l'avete giocato, vi consiglio di farlo, perché comunque rimane davvero un ottimo platform. Rinnovo i miei più calorosi auguri di buone feste, quindi passate un buon Natale e un buon anno, e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi di Archeologia Videoludica.